Salutone a tutte e tutti, nuova puntata di Passaggio a Nord-Ovest, il lunedì alle 13 la diretta, martedì alle 15.30, mercoledì alle 18 e venerdì alle 15.30 le repliche. Potete riascoltare le puntate di Passaggi a Nord-Ovest alla pagina podcast della radio, di Radio Wombat, così come sempre sul sito della radio potete trovare, oltre alla pagina podcast in cui ci sono i podcast di tutte le trasmissioni di Radio Wombat, trovate anche il palinsesto e da cui potete chiaramente ascoltare la radio in streaming, oltre a poterla ascoltare anche su AM1359. Un aprile resistente antifascista nel quartiere San Jacopino, che vede tutta una serie di iniziative che si snoda lungo tutto il mese, arrivando fino al 4 maggio. E ne parliamo con una rappresentante del comitato del giardino di San Jacopino. Siamo qui con Adriana, un abitante del quartiere di San Jacopino, che insieme ad altri abitanti e altre organizzazioni del quartiere ha organizzato un mese di iniziative, nel mese di aprile appunto, il mese che culminerà il 25 aprile, la giornata della liberazione, e gli chiediamo appunto, prima di tutto, quali sono queste iniziative, quando hanno iniziato, con chi vengono fatte, insomma una panoramica generale. Bene, buone notizie da San Jacopino, tanto per incominciare. Voi lo conoscete in maniera molto negativa, ma non c'è solo quello. Noi per il secondo anno facciamo un mese intero di iniziative antifasciste. Dal punto di vista dell'intervento, diciamo, politico-culturale, soprattutto con la gente del quartiere e puntando molto alla gioventù del quartiere. Siamo la rete antifascista di San Jacopino, Porta Prato, Cascine, che lavoriamo per questa iniziativa con ANPI, ARCI e CGL, però abbiamo poi anche iniziative autonome durante l'anno e questo mese l'abbiamo costruito quindi in maniera molto allargata, anche con un'iniziativa che poi vi dirò alla finale, dove ci sono anche altre associazioni. Questa è la cosa che mi preme sottolineare: se si comincia a far rete si ritorna a essere piuttosto forti. Allora, la che abbiamo chiamato aprile antifascista San Jacopino, la resistenza ieri e oggi, proprio perché facciamo la festa della liberazione che dura un mese, ma però vogliamo fare anche l'occhio su cosa succede oggi in Italia e nel mondo di negativo, di positivo rispetto a questo argomento. Si va avanti, si va indietro rispetto all'antifascismo, rispetto alla costruzione di una società diversa. Ecco, questo ci interessa parecchio. Infatti abbiamo, diciamo, una serie di iniziative che spaziano dalla ricostruzione di quello che è successo in questo quartiere, che è stato uno dei quartieri che ha vissuto più intensamente l'ultima battaglia di Firenze, con i nazisti inferociti e i cecchini alle porte, che ha visto la presenza di Gracco, di Potente, eccetera, che non avevano consegnato le armi e che hanno dato una bella spallata a nazisti e fascisti. Quindi siamo in una zona buona, dove bisogna recuperare le forze che ci sono state, che ci sono e che ci devono essere, che sono nella stessa direzione di quelli che hanno combattuto quella battaglia. Le iniziative sono principalmente quindi intorno alla costruzione di una mostra. Una mostra che si chiama Storie e vite di cittadini residenti in San Jacopino, Cascine, prevalentemente durante il periodo del 43-45, ma la differenza rispetto a queste cose è che abbiamo puntato a ricostruire vite vere. Intanto sono 8 sagome di persone persone ricostruite e naturale, prima erano in piazza accanto ai negozi, facevano effetto perché da distanza sembravano personaggi veri. C'era un Pertini che ha alloggiato per un certo periodo quindi a Spontini, che da distanza sembrava di vedertelo, e c'era il nostro Sugo che veramente sembrava lui. Quindi faceva veramente un effetto particolare. Questo, su queste sagome che abbiamo preso come erano nel periodo di allora, con la faccia di allora, Sugo c'ha un'aria felice, da partigiano felice, che veramente fa voglia, abbiamo scritto un po' di descrizioni di che vita hanno fatto, e ha messo alcune diciamo anche parti dei loro racconti, che poi dopo se mai vi dico. Dice, come, beh, la solita mostra, che ci frega, ne abbiamo viste tante. No, io credo non sia la solita mostra, perché andrà nelle scuole, va due volte alle elementari, alla scuola media, istituto comprensivo, con tantissimi alunni, con la presentazione di un libro su Sant'Anna di Stazzema, all'interno di un percorso che i ragazzi hanno fatto su Sant'Anna di Stazzema, sulla resistenza, la Costituzione, eccetera, eccetera. Verrà presentato il libro dei Guadagnucci su questo argomento, con la presidente dell'Ampi, i ragazzi della Polverosa, la banda più importante di questa zona, ma credo anche una delle più importanti della città, di giovani. Che quindi c'è questa partecipazione popolare, che vuol dire che i ragazzi sono nel mezzo, i ragazzi dalle quinte elementari alla terza media sono in mezzo a queste cose, partecipi, guardano, vedono, partecipano. Io poi ho già avuto alcuni ritorni positivi in questa direzione. È stata inaugurata in piazza San Jacopino, proprio direttamente nella piazza, e quando abbiamo finito a luna le sagome sono finite in alcuni negozi, dove sono rimaste, alcune fuori, poi le abbiamo ritirate e portate a scuola, altre dentro i negozi ci sono ancora, con la gente che va a vedere, e con i negozianti che si fanno, due, tre, quattro negozianti che ci hanno dato, abbiamo individuato le persone diciamo giuste, che ci danno mano a presentare, a informare, a presentare, ma poi si leggono da sole. Dopo, se volete, vi leggo alcuni brani, ma prima andiamo avanti con queste cose. Ecco, scusa Adriana, queste sagome verranno portate nei vari negozi oppure nelle varie spazi del quartiere, allora, fino alla fine del mese? Allora, con i negozi finiamo, vanno a scuola, elementare, medie. Venerdì prossimo vanno davanti alla manifattura Tabacchi, dove c'è un'iniziativa con la relatrice Laura Bandelloni, che racconta e legge brani di esperienze legate a queste storie, legate alla storia di questa resistenza nel quartiere. Poi vanno alla cena di autofinanziamento del 13 aprile dentro il circolo di Porta Prato, poi vanno alla Marabouc, questa credo sia una delle cose che a me piace di più di tutte, che dove si presenta il libro di Raimo, Il fascismo oggi, indagine sui ragazzi all'estrema destra. Invece di fare tante chiacchiere, poniamoci il problema di come è stata conquistata la gioventù, come pensano di conquistare la gioventù i nuovi fascisti, e quali sono i difetti che permettono nostri o di qualcuno della sinistra che permettono questa penetrazione, e interrogarci anche di come uscirne. La presentazione non sarà da parte di storici, ma da parte di una psicologa di comunità. Ecco, Adriana, per dare un'indicazione, la libreria Marabucca è in via Maragliano 29, no? 29 è una libreria che va sostenuta, perché è fatta da compagni che si stanno impegnando tanto con le loro energie, senza avere alle spalle grossi né multinazionali né gruppi economici forti, quindi vanno aiutati. Poi ci sarà il 17 aprile una cosa molto importante, purtroppo anche collegata agli ultimi fatti successi di Orso, Leonardo Lorenzo Orsetti, la lotta di liberazione del popolo curdo. Già l'anno scorso noi avevamo fatto un'iniziativa in questa direzione e avevamo avuto il Babbo di Orso, che ci aveva raccontato la sua esperienza. Purtroppo... E questo è il circolo di Via delle Porte Nuove? Via delle Porte Nuove 33, il 17 aprile alle 18. Però se andate sui siti del CIAMPI, Circolo Arci Lavoratori di Porta Prato, Circolo Ampi Rigacci, Circolo Arci di Firenze, Circolo Arci di Firenze, ormai è abbastanza tutto documentato e trovate tutto. poi andrà ancora nella cosa più importante, che sarà la festa della liberazione del 28 aprile, fatta dentro il giardino di Sea Copino. Già sono venuto un'altra volta a parlarvi di questa esperienza, siamo certo. Un'associazione che gestisce il giardino e che ha aderito con entusiasmo a questa cosa di ospitare dentro il giardino una festa della liberazione, con appunto le sigle che vi ho detto prima, ACI, CGL, AMPI, Rete Antifascista di Sea Copino, ma soprattutto appunto Associazione Sea Copino e una neonata associazione Begente Donne del Mondo, formata prevalentemente da donne senegalesi, ma che aspira a diventare una cosa molto più ampia. E lì ci saranno naturalmente canti, cori, il circolo appena formato Ribelli in Corde, il circolo di Via Porte Nuove, il gruppo musicale Quattro Quarti, la banda La Polverosa dei ragazzi dell'Istituto Comprensivo, anche questa è una cosa molto importante, il figlio di Sugo che porta le memorie inedite e le leggerà. Ieri abbiamo fatto l'inaugurazione della mostra in piazza, c'era il figlio di Sugo e mi dispiace che siamo una radio e non posso mandarvela, ma c'è una fotografia che troverete fra poco sul sito dell'AMPI con la sagoma di Sugo, che sembra veramente vero, accanto il figlio e accanto la nipote. È una bella immagine, ve la giro come augurio del futuro, nel senso che anche la nipote è impegnata politicamente, quindi è una persona che su cui si può contare e fa bene vedere queste cose, devo dire veramente la verità. Un passaggio di testimone, in sostanza. Sì, sì, sì. Pensiamo di essere il 25 aprile, cioè quasi sicuramente siamo il 25 aprile a Piazza Poggi, ma poi siamo disponibili ad andare in tutti i posti dove ci verrà richiesta la mostra. Quindi non abbiamo, diciamo, distinzione di gruppi politici, no, chi aderisce a queste idee antifascismo, antirazzismo, basta che domandi, e saremo ovviamente a Piazza Poggi, dove la nipote di Sugo sarà fra le lettrici di alcuni brani, se coincidenza ci ritroviamo insieme ed è una cosa, ecco, che dice che si può, si deve e si può fare, si deve andare avanti e si deve essere abbastanza decisi e consapevoli di quello che si vuole fare. Ultima cosa del mese sarà andare al museo della deportazione di Fidine di Prato, dove toccare con mano con gruppi di famiglie, io puntiamo molto a questa cosa, che le bambo mamma portino ragazzi e adolescenti con sé, a vedere il museo della deportazione, a rendersi conto chi erano deportati, cos'è stato, cioè 28 milioni di persone sono stati deportati a causa del nazismo e del fascismo, poi dall'altra parte il Giappone ha fatto altrettanto, e ne sono morti 16 milioni, dobbiamo cominciare a riprendere queste cose, non a fare discorsi astratti. Questa iniziativa è il 4 maggio. Scollina anche verso maggio, ad aprile, quindi recuperiamo, abbiamo detto un mese sì, 30 giorni. Ecco Adriana, ti volevo chiedere, svariati gruppi, svariate associazioni di base, comunque presenti nel quartiere, hanno collaborato tutto insieme per la riuscita di questa iniziativa. Ci sono state delle riunioni preliminari, c'è un qualcosa che va anche al di là, diciamo, di questo mese di aprile. Certo, certo, c'è qualcosa che va al di là di questo mese d'aprile. Intanto c'è una presenza di radicamento attraverso appunto la rete antifascista, la presenza del circolo Arci di via Porta Prato, che insomma sta diventando appunto abbastanza importante, io credo, nella città, e soprattutto poi l'associazionismo di base, cioè l'associazionismo che gestisce gli spazi, quei piccoli spazi pubblici rimasti in questo rione, che sono soltanto il giardino Saia Copino, te lo ripeto l'altra volta, ma te lo ripeto, la situazione non è migliorata a distanza di tanti mesi. Purtroppo è l'unico spazio pubblico che abbiamo in un quartiere enorme, con la più alta natalità di tutta Firenze, con le scuole che non riescono a reggere l'accesso di bambini, devono stringere e mandarli via. E quindi un'associazione che regge un giardino così, dove il comune proprio mette poca mano, un'associazione che fa una scuola donne migranti da 4 anni, la mattina alle 9, in modo da avere veramente le donne che non sarebbero contattabili se no, perché portano i bambini per venire a scuola, un'associazione che si occupa addirittura di seminare l'erba, perché il comune in questa zona non vede, non sente, sembra non esistere. E insieme a questa associazione poi di donne del mondo, che mi pare che sia una bella idea, no? Adriana, rimanendo un attimo sul giardino, mi hai detto che non è migliorata, ma non è migliorata dal punto di vista della risposta, diciamo, da parte dell'amministrazione comunale, ma dal punto di vista dell'aggregazione comunque si mantiene ancora abbastanza salda. Dal punto di vista dell'aggregazione è ottima, ti dico, no? Abbiamo dovuto mandare indietro persone che vogliono venire a scuola con donne migranti, abbiamo sempre il giardino pienissimo e non sappiamo come fare andare avanti perché il calpestio provoca casini e il comune non fa niente. Un mese fa abbiamo dovuto chiamare i vigili perché stava per cadere un muro, è stato transennato e nessuno viene a ripararlo, tieni conto che gli spazi sono piccolissimi, quel muro coincide col campo di basket, quindi i bambini non hanno neanche più il campettino di basket grandi come 2 stanze, ci hanno fatto il nuovo campo da calcetto un anno fa. È già rotto perché il superuso, sono tanti, veramente, bisognerebbe che vedeste quanti sono centinaia in uno spazio piccolo, e d'altra parte non c'è altro, per cui va bene così, per fortuna c'è, e noi siamo un punto di aggregazione di riferimento, certo. Ritornando appunto ai valori della resistenza a tutte quelle iniziative che appunto si coagulano nel mese d'aprile, però nello stesso momento, come dicevo all'inizio, o meglio l'ho accennato, c'è una presenza assolutamente sgradita nel quartiere. Come ci sono state reazioni rispetto a queste iniziative o comunque rispetto all'antifascismo? Dunque, le reazioni sono le solite, un po' vigliacchette, nel senso che i volantini vengono staccati e noi li rimettiamo, non è che siamo poi così teneri. Poi avevamo questa iniziativa in piazza, naturalmente notificata alla questura, perché eravamo in tanti, eravamo con occupare uno spazio pubblico, e naturalmente la signora Francesca Lorenzi, che molti sapranno che è, diciamo, la persona di Fratelli d'Italia, Casa G e bla bla bla, è venuta a fotografare. Dopo 2 minuti aveva messo sul suo Facebook: manifestazione pro-rom, pro-immigrazione. Non è stata neanche capace di leggere i cartelli e capire di cosa stavamo facendo, e naturalmente ha subito insinuato che non avessimo permessi, che fossimo clandestini, bilibubiliba. Ma vabbè, insomma, in piazza dove? Proprio in piazza Saia Copino? In piazza Saia Copino, certo. Quindi, niente, le reazioni sono queste, la presenza si vede, sono tutti occupati a fare le pratiche per il nuovo sindaco, il loro leader si presenta anche a sindaco, bene, è quello che vogliono fare, lo vediamo tutti i giorni, la presenza è inquietante perché, insomma, si vede che ci sono, non è che non si vede che ci sono, che noi però ecco, si vede, però non fanno, ecco, diciamo, da questo punto di vista, da un punto di vista delle intimidazioni, da un punto di vista... Tutti in questa zona, se si presenta sindaco e leader, non possono permetterselo, no, lo capisci. certamente. Si stanno rifacendo una verginità, immagino, no? Famoso come dicevamo negli anni 70, come dicevate anche negli anni 70, è il doppio petto. Il doppio petto, ora siamo al doppio petto, per cui per un po' vedrai che sarà così, insomma, fino a dopo le elezioni tutti puntano a quello. Vabbè, sappiamo che sono questo e intendiamo anche parlare di cosa sono, come sono arrivati a poter essere così, perché parliamoci chiaro, io l'ho detto chiaro anche ieri mattina in piazza, senza i Violante, senza personaggi anche della sinistra che li hanno facilitati, non ci sarebbero stati, senza la disillusione di tante persone non ci sarebbero stati, però ti dico una cosa, ieri mattina a un certo punto è sceso un signore da un palazzo lì degli intorni e ha detto: con chi posso parlare, devo raccontare una cosa, e io mi sono avvicinata, dice: io mi chiamo Pinco Pallino, sono venuto perché non l'ho mai raccontato a nessuno, ma ora vi vedo qui, mi piacete troppo, dice: io a 7 anni sono stato salvato dal Ballerini, il partigiano Ballerini, dall'Anciotto, tra l'altro il partigiano Ballerini anarchico, dice: sono stato salvato dal Ballerini, che vuol dire, gli ho detto, sì, perché la mia famiglia era di origine ebrea, ma eravamo poveri, non ce ne fregava niente, stavamo a Campi, dice, e ci avevano preso di mira e quindi stavamo per rischiare grosso, la gente ci ha protetto, ha chiamato il Ballerini che in 3-4 ore sono arrivati in 3, ci hanno portato via e non ci hanno mai più trovato, io gli ho chiesto: ma dove eravate? Ed eravamo sparsi in una cascina nei campi, non ci hanno mai più trovato e ce l'abbiamo fatta, dice, era il momento in cui appunto del passaggio del fronte, quindi i tedeschi proprio ci andavano pesanti, dice, io sono vivo grazie a lui, dice, io non l'ho mai raccontato a nessuno, ma mio figlio mi ha detto: vai giù a vedere che ci sono quelli come te, vai a parlargli e diglielo, basta di stare zitto, e lui è sceso e ce l'ha raccontato. Puoi immaginare anche i ragazzini che c'erano lì con i genitori, di ragazzini adolescenti che c'erano, c'erano anche ragazzini adolescenti ieri mattina, a sentire dal vivo uno che ti racconta questa cosa, tutto emozionato, e via. Quindi appunto, oltre a, diciamo, una pratica divulgativa, una pratica informativa, c'è anche durante la mostra, c'è anche questa socializzazione. E soprattutto, cioè io lavoro con le mostre dal punto di vista di una storia pubblica da 20 anni, non sono proprio più vellina, e quindi mi sono fatta un po' d'esperienza, quindi anche come sono costruite le mostre incide su poi la comunicazione, se vuoi appunto ti faccio 2 o 3 esempi di cosa vuol dire questo, vuol dire che i partigiani ci sono Sugo e Gracco, Sugo è giovane, non è giovane con la sua divisa, il suo fazzoletto rosso, come è stato allora quando era giovane, ma è un giovane contento perché abbiamo preso la fotografia di lui vestito da partigiano, ma con il montaggio poi della faccia di un raduno partigiano del 48, e lui era al massimo della felicità. Ecco, no? l'abbiamo trovata, ce l'abbiamo sotto gli occhi ora. L'hai vista? Quello è suo, è Sugo come è stato fino alla fine, o sbaglio? Più o meno sì, perché... perché c'è la felicità negli occhi, quello è quello che ci interessa, cioè lui ha sempre detto: quello che ho fatto a loro mi ha cambiato la vita e quella vita l'ho fatta poi tutta la vita, quindi quello che è successo è quello, non è solo la battaglia in sé, ma è quello che nella vita ti è successo, e di lui per esempio io ho messo un pezzo che è nelle memorie inedite, che parla del fatto che quando è sceso a San Pollo hanno dormito finalmente dopo mesi che non dormivano dentro una villa per terra naturalmente, ma hanno avuto uno spazio chiuso finalmente dove stare un attimo più comodi, e dice: la mattina ho visto che c'era una libreria, una biblioteca, mi sono infilato in questa biblioteca e ho visto che c'erano dei libri, fra cui il famoso scrittore Pitigrilli, lo sai che era messo all'indice dal fascismo perché era un po' osè, roba che oggi possono leggere anche i ragazzini delle medie sostanzialmente, però allora era l'indice, e allora dice: la mattina l'ho preso per leggerlo, ma il sonno mi ha sopraffatto, la mattina l'ho messo, ho pensato di prenderlo per leggerlo con comodo, un libro a un ragazzo di 18 anni che viveva da una famiglia estremamente proletaria era una cosa bellissima, così ho messo il libro della camicia, e messo nel piazzaletto della villa a parlare con alcuni compagni presenti, tra i quali vi era anche Vittorio, il commissario politico, persona integerrima e intransigente, devo dire un vero comunista, mi chiede cosa ho nella camicia, al che gli rispondo un libro, molto chiaramente, non pensava fosse federale, no? E lui, dove l'hai preso? Io rispondo nella biblioteca. Allora lui grida, Ragno, fucilalo! Ragno gli risponde che lui non mi avrebbe mai fucilato. Allora Vittorio mi fa una morale, dicendogli di tenere presente che ogni capo di spillo che verrà requisito appartiene al popolo e che la fucilazione era solo per farmi capire cosa vi poteva accadere. Devo dire che quella morale mi è rimasta impressa per tutta la vita. Riposi il libro nella biblioteca e così chiusi questa parentesi. Ma continuò a pensare libero, a leggere libri per tutta la vita. Cioè, a me è sembrato che per trasmettere qualcosa ai ragazzi di oggi va bene anche fargli vedere i fucili e fargli vedere che c'è stata la battaglia, ma quello che, che sono stati i diversi, i partigiani e la gente che a quell'ideale si ispira, è anche questo, la curiosità, la voglia di sapere, la voglia di conoscere e nello stesso tempo l'essere integerrimi, cioè avere una morale veramente seria, no? E questo che lui ha scritto negli ultimi 2 anni mi è sembrato un pezzettino molto bello. Il figlio di suo verrà il 28 in questa grande festa che sarà dentro il giardino San Jacopino dalle 4 alle 11, speriamo, di sera, a leggere delle parti delle memorie inedite. Quindi se avete voglia venite, c'è anche la merenda, ci sono gruppi musicali, ci saranno giochi per bambini, puntiamo molto alla parte per ragazzi e per bambini, insomma, portare la mostra, fargliela vedere, incuriosirli ma nello stesso tempo vivere anche insieme, ecco, perché la socialità è quella che manca oggi, ci stanno dividendo tutti, se su certi valori li mettiamo in piedi dei momenti di socialità, tu lo sai bene, è importante, no? Adriano, ha parlato di assemblea, ha parlato di mostra, ci sarà qualcosa anche, tipo la mostra sul libro o qualcosa del genere, la trasposizione della mostra su un libro, su un pamphlet, oppure ci saranno registrazioni delle assemblee da poter poi successivamente riascoltare, ecco, verrà fatto qualcosa? Non lo so, è stato duro, sai, fare un lavoro così in poco tempo, partire da fotografie, formato tessere e vedrai cosa è venuto fuori, non è stato un lavoro semplice, è stato un lavoro abbastanza complesso che ci ha portato via tanto tempo, la mostra è disponibile per girare, vediamo, io credo che nascerà più di un'idea, l'ho già vista, si stanno già proponendo una serie di cose, vediamo cosa nasce, nel senso che l'importante è che la gente si ritrovi. Quando si ritrova e vede che qualcuno parte, secondo me nasce altra roba. Io le testa ce l'ho tante di cose, ma non le voglio fare io, voglio che le facciano le persone che si aggreghino. Per andare sul concreto anche rispetto alla mostra, è trasportabile, uno ve la deve chiedere e poi la porta alla piana lui, ecco. Sì. Uno, un'associazione, insomma. Allora, fino a metà maggio è impegnata, no, fino al 28 di aprile è impegnata nel quartiere, poi ci sono altre 2 iniziative di maggio, perché c'è una festa della scuola che viene fatta al giardino in collegamento con la scuola, proprio anche fisico, penso che sarà il giardino aperto verso la scuola come tutte le mattine e tutti i pomeriggi, e quindi ci sarà occupata anche il 31 di maggio, però basta contattarci e si può averla sicuramente. Vuoi qualche altra storia? Me ne piace raccontarti una soprattutto? Sì, una in 4 minuti, fammela finire di cercare, te la volevo leggere proprio in originale, perché ho trovato della manifattura tabacchi, di cui si sapevano tante cose, ho trovato proprio un originale dentro il suo storico della resistenza. Allora, la manifattura tabacchi è stata una delle, sapete bene, 90% di donne che ci lavoravano fin dall'Ottocento, si è trasferita nella fine anni 30 qui giù dove ora l'hanno chiusa e dove vogliono fare quello scempio, e nella manifattura tabacchi le donne erano un nucleo molto importante della resistenza fiorentina, perché tanto passavano le sigarette ai partigiani e facevano raccolta fondi e facevano tutto quello che hanno fatto le donne non riconosciute nel loro lavoro, di staffette, di collegamento e di tante altre cose. Mi viene da servire le sigarette ai partigiani, perché ora ti faccio ridere io sulle sigarette, aspetta. Allora, devi sapere che nel marzo del 1944 l'Italia è stata l'unica nazione europea in cui c'è stato uno sciopero molto grosso, uno sciopero dichiarato dal CNN che ha avuto grandi presenze nelle Nord Italia, Liguria, Lazio e anche in Toscana, ci sono state quasi 500 persone deportate per gli scioperi, la maggioranza di loro, il 90% di loro non è tornata, questa è una cosa di cui vogliamo ricordarci, si parla sempre giustamente degli ebrei, di questo questo e di quell'altro, ma i politici. È uscito in questi giorni un bellissimo libro di Vantelli con tutte le migliaia, le decine di migliaia di reportati politici che bisogna, di cui bisogna cominciare a parlare un pochettino di più. Allora, fra le donne di Firenze sono state le prime, della manifattura, sono state le prime a entrare in sciopero e naturalmente dopo il secondo giorno è arrivato subito Mario Carità con il prefetto Manganiello a minacciarle. Sapete chi è Carità, il torturatore di Firenze, terribile. Allora, Villa Triste. La triste, per capirci, sì. Allora, nonostante questo le donne continuano a fare sciopero per altri 4 giorni e poi si mettono anche d'accordo col direttore e ottengono dei risultati. Ora ti leggo un pezzetto tanto da finire. Mentre loro, per minacciarli, portano anche 3 donne in direzione per cercare di intimidirle e di farle smettere, mentre diciamo c'erano questi che facevano queste intimidazioni, le donne, ti leggo cosa hanno scritto le testimone che poi hanno rilasciato le loro testimonianze, di cui noi mettiamo 5 foto di persone fra quelle che sono state molto attive. Fu proprio in quel momento che le compagne dimostrarono la loro scaltrezza. Dovevano ancora una volta battere i repubblichini e mentre alcuni compagni di collegamento invitavano i lavoratori a scendere nuovamente nel piazzale per liberare altri compagni dalle grinfie di Carità, altre donne invitavano i repubblichini a fornire dischi di sigarette. Questi non si fecero ripetere l'invito e si empirono le tasche, perfino nel cappello e nei gambale dei pantaloni. Contemporaneamente la massa, riversatasi nel piazzale, faceva tutto per far rilasciare le sue compagne e infatti furono rilasciate. E una compagna da un telefono di un reparto avvertì il portiere che i repubblichini rubavano le sigarette. Il portiere riferì questo ad un ufficiale, il quale le fece richiamare tutti i suoi sbirri in ufficio dal commissario amministrativo e furono costrette a rilasciare la refurtiva. Fu calcolato che avevano asportato oltre 4.000 sigarette. Gli operai dalle finestre dell'ufficio che mettevano sul piazzale poterono assistere alla scena e con gridi, ladri, tornatevene via finché ci siete voi, non riprenderemo il lavoro, costrinsero la marmaglia dei traditori a andarsene vergognosamente battuti. È una piccola cosa, ma dimostra che la resistenza è fatta di tante cose e che la resistenza si va sperimentata tutti i giorni. Adriana, Radio Wombat ti ringrazia per questo contributo e ci risentiamo prestissimo anche per ci possa dare anche delle valutazioni complessive rispetto a questa cosa. Ciao per ora. Ciao.